sequestrare un grammo d'erba, due bambini, servono due spirri, tre caramme, eppure quattro alpini. Sai com'è, visti i tempi, criminali e dissidenti, militarizziamo i centri, poi la vita è più sicura, lo Stato ci protegge dall'inferno, o forse chi è al governo sa che cosa andiamo incontro e c'ha paura. Dimenti, vincenzi, elettori deficienti, date via la città intera al Mussolini della nuova era. Difesa della privacy per le intercettazioni, telecamere, guardate, ci siamo poveri coglioni. State buoni, attendiamo tutti quanti, solo il primo che ci schizza, strafatto a dei Ferrari, col G4 nella cinta, schiaccia il tasto e salta in aria. Ci diranno che ci vuole più controllo nella nostra bella Italia. Signori, vi presento la legge antimovida, uccide quel poco di città che è ancora viva, asfissia un'anima che già più non respira, fate stragi deprimendo e poi vendendo l'eroina. Signori, vi presento la legge antimovida, uccide quel poco di città che è ancora viva, asfissia un'anima che già più non respira, fate stragi deprimendo e poi vendendo l'eroina. Cammino per i vicoli, mi sento al sicuro, ad Alvaro se grido non arriva nessuno. Uomo, ti lamenti sempre dei nuovi arrivati, immigrati, non lasciateci soli con gli italiani. Esseri umani nella mischia, c'è chi ti fissa, c'è carissa, fiumi di birra, c'è chi grida davanti al gradisca, chi si butta nella mischia mentre il vento fischia. Ma se il popolo lavora, la festa è d'obbligo capirla. Guardano con telecamere, rubano anime, fondono cervelli per truffe mediatiche. Ti credono fragile, puoi spendere e andartene tra una dittatura e questo il confine è troppo labile. Assenza di speranza, a noi chiedono decenza, sti fascisti riciclati con la diviso senza. Che problema la loro sola presenza, sì. Mentre tra vicoli bui io organizzo resistenza. Signori, vi presento la legge antimovida, uccide quel poco di città che è ancora viva, asfissia un'anima che già più non respira, fate stragi deprimendo e poi vendendo l'eroina. Signori, vi presento la legge antimovida, uccide quel poco di città che è ancora viva, asfissia un'anima che già più non respira, fate stragi deprimendo e poi vendendo l'eroina.